Il nostro è proprio uno strano paese. Siamo afflitti da una legge elettorale che per concordia e riconoscimento di critica e pubblico, tutte le forze politiche comprese, fa quanto schifo, al punto che il Presidente del Consiglio in carica ha giustificato quella che lui stesso riteneva un'anomalia politica del suo governo, cioè il fatto che si appoggiasse su una maggioranza diversa da quella scelta a suo tempo dall'elettorato, osservando che con una legge del genere non si poteva certo andare a votare di nuovo. In tale situazione, a prima vista, parrebbe opportuno mettere mano senza indugio a una legge nuova, perché un paese in cui non si può andare a votare non sembra esattamente il massimo dal punto di vista democratico. È vero che ci sono dei problemi, perché i partiti grandi puntano al modello maggioritario, quelli piccoli difendono a denti stretti la quota proporzionale, ma insomma la politica è fatta apposta per superare con le opportune mediazioni contraddizioni del genere. Invece no. Di rifare la legge elettorale si parla, ma nessuno prende iniziative in merito. Bisogna aspettare, dicono, che la Corte Costituzionale si pronunci sull'ammissibilità del referendum proposto da un certo numero di cittadini con il fine di eliminare la quota proporzionale dell'attuale legge per l'elezione della Camera dei Deputati. Sempre a prima vista, sembrerebbe difficile che la Suprema Corte possa passare per buona una proposta del genere. La Costituzione italiana, all'articolo 75, prevede il referendum al solo scopo di abrogare in tutto o in parte una legge. E i fautori di quel referendum là non hanno intenzione di abrogare in tutto o in parte la legge elettorale, che non potrebbero nemmeno. Vogliono eliminare la quota proporzionale, facendo sì, mediante un abile gioco di tagli e rammendi, che la legge in vigore, quella che c'è adesso, preveda che quel certo numero di deputati che prima venivano eletti col metodo proporzionale lo siano in un altro modo, quale non ho ben capito, ma presto o tardi ce lo spiegheranno. Il che sarà magari una bella cosa, non lo nego, ma non di un'abrogazione totale o parziale si tratta, quanto di una modifica, magari meglio. E un referendum modificativo o migliorativo dalla Costituzione, ahimè, non è previsto. Per non dire che non bisogna essere dei geni per capire che una legge che fa schifo, una volta manipolata in modo che prescriva una cosa diversa da quella che prescriveva prima, farà più schifo ancora. Ahimè. E fidarsi della Corte Costituzionale è sempre un azzardo. Di referendum manipolativi ne ha già ammessi a iosa e di indipendenza dal potere politico ne ha sempre dimostrata pochissima. Il potere politico si è visto quel referendum lo vuole, se no avrebbe già cambiato la legge per conto suo. E una volta pronunciatasi la Corte, ci assicurano, prima o dopo che il popolo sovrano abbia votato sul referendum, e sarà dopo, perché volete forse che su un referendum dichiarato ammissibile non si vada a votare, quindi dopo che il popolo sovrano avrà votato sul referendum, il Parlamento sanerà le eventuali incongruenze con una bella legge che tenga conto della volontà dal popolo chiaramente espressa. In altre parole, ci stanno preparando pari pari la stessa truffa che ha fatto seguito al referendum del 18 aprile 1993, che aveva reso inutilizzabile abolendone una parte la legge elettorale del Senato, e aveva permesso così ai partiti di far passare, con la scusa di rispettare la volontà popolare, una legge nuova, che è la stessa che adesso bisogna cambiare perché si è visto che non funziona. La truffa, naturalmente, sta nel fatto che ai cittadini si dice che il loro voto sarà risolutivo, che a loro solo spetterà decidere quale sistema elettorale scegliere, mentre ci si propone tranquillamente fin d'ora di considerare quel voto come puramente consultivo, riservandosi il diritto di concretizzarlo in provvedimenti concreti che ne interpretino il senso. Del fatto che dell'istituto del referendum propositivo, che pure sarebbe anche possibile, nel nostro ordinamento non ci sia traccia, non sembra curarsi assolutamente nessuno. Basta che i cittadini esprimano comunque un orientamento e a realizzarlo ci penseranno loro. Almeno fino a un certo punto, eh? Perché quando l'orientamento dei cittadini riguarda qualcosa che gli va meno a genio, i nostri politici riscoprono subito le differenze tra voto propositivo e voto abrogativo. Il referendum che lo stesso 18 aprile del 93 provvide ad abolire il finanziamento pubblico dei partiti non ha mai goduto di alcun valore orientativo. E se lo si cita a qualsiasi esponente della prima o della seconda repubblica, ci si sente immancabilmente rispondere che quello aveva semplicemente abrogato una legge. Una certa specifica legge, il che non solo autorizza ma impone di farne subito un'altra. E come a dire che il fatto che il 90,3% dei votanti avesse dichiarato di non gradire un finanziamento di, mi sembra fossero 36 miliardi, una cosa del genere, non impedisce di fare una legge che di miliardi ne elargisce 130. Come a dire che il cittadino ha il diritto di esprimere quegli orientamenti su cui la classe politica è d'accordo, gli altri no. Lo so, quest'ultima affermazione sembra becera e qualunquistica, ma sinceramente, amici miei, quando si sentono certi discorsi, come si fa?